I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Oggi è lunedì e come sempre abbiamo l'agenda finanziaria della settimana. Venerdì, dopo 4 sedute sulle montagne russe e sui mercati azionari, è tornata un po' di calma, rincuorati dalle parole di Janet Yellen, presidente della Banca Centrale Americana, che in un discorso pubblico ha chiarito che la Federal Reserve continua a vedere un primo aumento dei tassi entro la fine del 2015 e ha ribadito che la manovra di stretta avverrà a ritmi graduali. Così, dopo giornate di rosso profondo, le piazze finanziarie si sono risollevate il morale, anche grazie alla pubblicazione della seconda lettura del PIL del secondo trimestre, sempre americano, cresciuto del 3,9%. Le nubi sul settore auto invece in Europa non si sono certo dissipate. La settimana è stata travolta dal Dieselgate, lo scandalo delle emissioni inquinanti truccate della Volkswagen. Tutti i titoli del settore hanno accusato perdite pesantissime in borsa. Per il gruppo tedesco il tracollo è verticale, il danno reputazionale sembra quasi irrecuperabile. Quella che si apre oggi sarà una settimana molto importante per verificare la tenuta di tutto l'automotive europeo e tra l'altro il tema ha anche avuto l'effetto di far passare in secondo piano la crisi cinese. Per quello che riguarda i casi che hanno invece movimentato la settimana a Piazza Affari, c'è stato il primo incontro con la stampa del neo presidente di Monte dei Paschi, Tononi, ma soprattutto la banca ha siglato l'accordo con Nomura per chiudere il derivato Alexandria. Chiaramente abbiamo avuto in movimento tutta la galassia Fiat, che ha pagato duramente lo scotto dello scandalo della concorrente tedesca. Prima di concludere, un'occhiata ai temi su cui punteremo i riflettori in settimana. Intanto oggi abbiamo l'effetto dei risultati della consultazione elettorale della Catalogna in Spagna. I mercati cinesi saranno chiusi dal 30 settembre al 7 ottobre. In Italia oggi abbiamo un'asta da 6 miliardi e mezzo di bot semestrali con i rendimenti che sono attesi in leggero rialzo. Abbiamo le nuove statistiche sull'andamento dell'inflazione sia in Europa che negli Stati Uniti e poi venerdì il dato sulla disoccupazione americana di settembre. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Non sappiamo ancora dire con certezza se l'economia, che dopo 4 anni non è più tecnicamente in recessione, abbia davvero imboccato la via della ripresa. Soprattutto non sappiamo ancora quanto questa ripresa sia consistente, sia destinata a durare e a rafforzarsi. Oggi però un segnale positivo arriva dall'Istat, che ci dice dei buoni miglioramenti registrati ad agosto sia per le imprese sia per i consumatori. Anzi, l'Istituto di Statistica oggi ci dice che per entrambi questi ambiti, quindi le imprese e i consumatori, gli indici di fiducia hanno toccato livelli record rispetto agli ultimi anni. L'indice che misura il clima di fiducia delle imprese italiane è ritornato al livello più elevato dalla fine del 2007 e lo stesso, anzi meglio ancora, è andata per i consumatori, perché lì l'indice è ritornato ad agosto ai livelli del marzo del 2002, ben 13 anni fa. A che cosa si deve questa ondata di maggior ottimismo? Beh, per i consumatori aumenta molto la componente economica, migliorano cioè le attese sulle prospettive dell'economia, specie per quanto riguarda l'occupazione. Per le imprese invece la fiducia aumenta in tutti i settori, il manifatturiero, quello delle costruzioni, quello del commercio al dettaglio, a conferma degli ultimi dati positivi che sono giunti alcuni giorni fa e che segnalavano una mini ripresa dei consumi. Allora, come valutare questa indagine? Beh, è evidente che la strada per la ripresa è ancora molto lunga, ma è altrettanto certo che qualche segnale positivo si vede. Il problema resta quello di capire quanto è solida veramente questa ripresa. Partenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e RDS.it.